Thank you. Noi siamo Bosco Sacro, il nostro prossimo pezzo si chiama Fountain of Wealth. Grazie di essere qui. stasera vi presentiamo per intero il nostro primo album che è uscito a febbraio per Avantgarde Music, si chiama Gem. Lo state ascoltando praticamente dall'inizio alla fine. Grazie ancora di essere qui. Paolo, scusami, potrei avere più voce nella mia spia? Nei miei, grazie. Anche al batterista, per favore. Yeah. 18. Grazie alla società psichedelica, sono molto felice come possiamo suonare e condividere la musica. Trovate lì il nostro vinile, il nostro CD, magliette, eccetera, e anche i dischi dei nostri progetti altri. Grazie di cuore.